Siamo gli amici qui della Sardegna che ti fa per visire la stazione del Tacomeo della Ville di Sassari. Hola, attenzione, mon ami, j'écoute lui de la Sardaigne qui t'y appelle. Je t'écoute, et le billet de proposer. Quel est ton prénom, mon ami? Attention, mon ami, quel est ton prénom? Oui. Le proposer de le billet. Non, billet en France, non. Je n'avais pas de billet. Le proposer. Profumer le culé. Mi sono trascinato un po' nel letto io. Hai fatto bene tu. Anche io adesso mi strascino, mi avvicino al microfono e tutto, e mi trascino male, mi senti così. Guarda per te. No, se non si può. E là, adesso mi sono strascinato. Perché anche io sono un po' stanchino. Poi stavolta fatto un po' di ex. Oh, io non volevo più salire, mi posso fare più troppo lezioni, va bene. Ehi, con Monza, ho parlato con un bel fusto, e già va bene, dai, ti diverti. Io facevo un'azione, va. Riesco ad avere qualche macchinetta, ci fa da mano, ma c'è troppa gente che fa qua. E dove sei andato a vederla? Ah, vedi di caso, questo meccanico che c'è più dentro tua l'ansia. Praticamente questo meccanico cosa fa? Lui compra macchine da concessionare, quelle che non vendono proprio, a prezzo tracciato 200-300 euro, massimo 500 euro. Le dà una giustattina, la benedetta, le vende 1.500-2.000 euro. E c'è una roba? A me prima voleva ritirare la macchina, poi si prendeva la mia, poi mi ha chiamato, mi ha abbassato ancora il prezzo e ho pensato quello io, se no lascia stare, non mi interessa più. Ehi, hai fatture. Tanto la gente vuole la roba a regalo sempre. Tony, ma tu che intenzione hai di prenderti una macchina grossa e prendere una piccola, però di che genere? Perché non te ne prendi una nuova piccola, scusa? Così almeno ce l'hai nuova e non invece più, magari ti incappi in una macchina che ti fa male e dato l'altra che va bene per prendere una che fa male. No, la mia è già vecchiotta, dai. C'è 300.000 chilometri. Ma io voglio prendere la macchina andante, sì, devo andare alla pensione l'altro anno, tutta cosa nuova, adesso non voglio prendere una nuova. Voglio prendere un contante e spendere 1.500-2.000 euro. Ma... Ehi Antoni, ma tanto poi se te li fa spendere per aggiustarla i soldi, tanto vale che te la prendi una di quelle semi nuove che hanno pochi anni di vita e la paghi un po' di più, però almeno ti dura. E magari non c'è bisogno di comprarla manco nuova quando vai in pensione. Sì, vabbè, io la mia l'ho versata con 350.000 km, volevano 150 euro per la demolizione. E allora me lo sono venduta, me la sono venduta a un amico che aveva bisogno, gli ho detto guarda, non te la do gratis, per non dire che te la regalo, mi dai un tanto e ti paghi il passaggio. E così ho fatto, l'ho dato a questo amico che aveva bisogno, gli ho dato una cazzata, 200 euro, tanto ne avrei pagato 150 per la demolizione. Sono andato a 200 euro e si è abbigliato. Mi ha fatto vedere questo qua, 2 panda, cambio automatico che io ho sempre odiato, poi benzina, papà, non è interessante. Era pure condizioni così. Quando me la vedeva 4.500, ho detto guarda, io pago il compagno. Sono andato a 12 che sono stato preso. Poi così, colà, e allora c'è sempre. Poi quando sono tornato a casa mi ha di nuovo chiamato, appoggiando il telefono. Ascolta, lunedì mattina ritiro una Lancia Musa per 1.500 euro e da lì ho capito molto a darti che c'è qualche qua. Dice, appena abbasso, poi a mezzo niente qua. Ecco. Per 1.500 euro, però la tua fa ritiro, ero accettato, mi piace. Ma guarda che ce ne sono molti negozi dell'usato, mi pare che ce n'è uno a carica che vende solo macchine usate, però macchine buone. Allora sono carica, ce n'è uno che vende solo macchine usate. E dove, in che punto arrivate? Non lo so tu esattamente dove sia, perché quando stavo cercando una macchina usata io ho visto che c'era questo qua. Però non so dove sia esattamente a carica. fa, vende solo macchine usate. E ne ha a parchi, cazzo, di macchine usate, un parco enorme. Visto quella pubblicità che fanno la televisione, che si comprano la macchina? No. Visto che si parla con la macchina, te la comprano, tutto. È una grande e grossa fregatura, perché io ci sono andato, è vicino a casa. E ha fatto 50 fotografie più davanti, ma non sono di fianco di tutto quanto. E aspettavo, e poi ho fatto, e comunque ho messo l'altro, dice loro, questo ragazzo. E nessuno ha offerto niente, la macchina mia cammina, grazie a Dio, era 2 anni fa che ancora si può la macchina mia. E mi fa, comunque guarda, non mi hanno offerto manco un euro. Se vuoi te la posso ritirare io, e la rosavo io, non voglio niente. Ho detto, guarda, già perché ho preso anche 5 euro. E non so che... Ha regalo la guida. Ma ce ne sono tanti dell'usato. Adesso non mi vengono, ce n'era uno anche a Rimpunti, non so se ci sia ancora. C'era anche uno a Rimpunti che prendeva macchine usate. Bisogna solo guardare. Comunque tu dici, se devi prendere un usato buono e a poco prezzo, sali in continente e trovi quello che vuoi, vai su internet, te la controlli. Un mio collega si è preso un ATT dell'Audi, l'ha pagata 8.000 euro ed era di un dottore, la usava solo per andare da casa all'ambulatorio. Tu devi vedere questa macchina, non c'ha un graffio, è tutta perfetta dentro, sedili in pelle, tutta, non sono né consumati né niente, tutto sembra nuova. È stato un mese che non si parlava con la moglie perché non voleva comprarla, e... però mi sembra che un bilio del Matesi. Ma io chiamare la Puglia, ma però questa volta fuso con la sua internet uguale nuova condizioni 2500 euro, ma da lui a me questa volta fuso, e guarda, fatti la loro 5500 euro. Ma io parlo di inglese tu. Come sono trattinato, guarda, sto così bene, guarda, c'è guarda. Attention my friend, Italy from Sardinia. Ecco. Ma sì che per la voce del balcone. No, questo qui è Franco, avanti. Ecco. Avanti. Ah, mi senti, sì. Via. Ciao, sono Gianni. Chi sei, Gonzale? Gianni. Gianni Maggi. Gianni chi? Gianni Oscar. Ah, pensavo Gianni di Mulos. No, negativo. Cappa, dai, mi hai sentito col Galizia. Oh, Torino. Comunque il miglior di ex che abbiamo fatto è quello là. Manolo. Ma lo sento lì che il figlio me l'ha detto che c'è cascato, però non lo voleva ammettere. Dice che stavo tutti ridendo a casa sua, anche la moglie. Sì, c'è cascato, ti sentiva, dai. Non so come dire questa qui, non so come separa. Se è rimasto male mi posso soffrare, allora la penso questa. Oh, yeah. Era anche mezzo incazzato. Avanti l'amico già. Sì, sono io, ciao. Ciao. Ah, ti ho riconosciuto, Antonio Riserva, avanti, non fare furbacchioni. Ah, se mi ascolti, per fortuna qualcuno mi ascolta. Ciao Antonietto, come va? Ciao già, bene. Benissimo, questo qua è il microfono che non andava bene, che ho aggiustato io, che bravo che sono stato. Ma non è quello che dovevi dare a me, no? Non penso proprio, no. Questo qua è l'MV più 5, quello che tu pensavi che fosse il potenziometro, invece era la capsula che stava partendo. Io ho messo una capsula buona e adesso è di lusso. Insomma, questo microfono è stato fatto da me e da Luca, è stato costruito. Hai visto? Ognuno ha fatto un pezzo. Ah, signore del cielo. Ma quello che dovevi dare a me non ce l'hai più. Io a te te l'ho già dato l'MV più 5, non ho per le palle, se no te lo riprendo che era nuovo nuovo. No, mi ha detto che mi davi un microfono alla Farmos Rapido. Per pezzi. Ce l'ho, ma non... c'è l'interno e basta, non tu. Ma la carcassa ce l'hai? La carcassa? La carcassa, lo scheletro. No, mi ti ho detto una parte, l'altra parte non ce l'ho. È di UDM1000. Porca madosca. Mi si è spaccato, capito? Il calzettone si è spaccato, quindi c'è un pezzo e l'altro no. Però l'interno ce l'ho, tutto l'interno che funziona. Bene, con chi stai parlando? Con Tonino Capasà. Ah, no, non lo conosco. Mi ascolti Gianni? No, non ti conosco, no, Tony. No, sono Battimbio, non mi ascolti a Sassari. No, non mi ascolta Gianni. Ah, tu lo ascolti a Torino Cavazzà? Sì, lo ascolto, ma ogni tanto se lo mangia un rumore... È più bello, Remi altissimo già. Perché è ancora appetitoso, capito? Se lo mangi. Vorremmi. Qua se non arrivo 9.30 non ascolto. Sento bisbigliare, però si sa da te. Questo Gianni per me lo sento. Ma cosa Gianni che era tu? Vabbè, non c'è, questo Gianni lo fa, nominato Gianni. So che da tempo già si ascolta Gianni. Avanti, prego. Buonasera a tutti, stazione Tincurio. Ah, hai fatto Tincurio bene. Ah, Tattalino. Camiatui. Ehi, che bello, Tattalino, che bella voce che c'hai quando fai il sicchisi. Ha già passato il microfono, ma è macubiato il mattese. Ma ti conosco anche fatta insalata a te. Qua se passo una pericolo. E cosa vi posso fare? Non posso fare niente. Ci sono stati rapigliati da quarantena, non lo so. Più di così non posso uscire, c'ho anche il microfono preamplificato, quello M93, cioè. Perché il suo addirittura esco ancora più basso. Natale, io ti posso dare un consiglio per il telefono. Già. Allora, prendo un bel pallone, lo vuoi finire, metti l'antenna, lo fa salire 200-300 metri in aria e con tanto cavo poi trasmetti. Sì. Si può fare con un dipolo quel lavoro? Oh sì, lo dovrebbe abitare a Grattacielo per prima. No, ma sei lui, Io già ce l'ho l'antenna che se ne sta ridendo, sopra 12 metri di palo e in casa, su, in campagna, a Fangualla. Io grande ma farà dire la carina. Io devo farà sì, che la devo punire a fianco, a casa, perché me ne danno che mi avvio, ma giù le balle piene. Ma io vengo io, te la desmonto io. Quando fai così, anche io ti temo a te. Come ti vuole montare? Ma quello con l'antenna da bui. Non l'hai compreso? No, voglio quella che c'ha lui adesso. È tutta la riduccia, tutta messa male. Antu. C'ha la punta dello stilo che è storta, addirittura che avevamo ducato, ma quando te l'hai ammazzato. Mi è stata un'impresa mia con il lago mentre l'hai avuto. Non l'hai vista tu, Antu, com'è? Antu, se ce la fai a smontartela con l'antenna. Ah, l'ho perso, ogni tanto l'ho perso già. C'è un bel QRM, ne tengo un po' di niente fa per tempo. Ma lì dovete far vedere, sono trusivo. Io guarda, è molto selettivo questo apparato, Adesso l'ho abbassato di là, tanto come sta andando? Vabbè, qua sei 9:10, io sono in campagna, non sono a casa. Ma la radio è buona, Sì, no, la radio è buona, la tua solita radio. Cava gara. Andare. Si mi ravi buttato qua nella casa in terra, che s'antenna. E che c'ho questa gamba, che mamma mia. Guarda, ho posteggiato la macchina lontano da qua. Beh, me ne vado dalla macchina, ho preso il macro, beh, a quando arrivare a casa ero gribato. Qua vi un durori che guarda, mi sono dovuto sedere sulla panchina della fermata del tram per farmi passare il dolore. Sino a casa non vedo più riesci a stare. Dimmi tu. Va. Meglio di me Natale non ti capisce nessuno. Tre pappo. Devo andare a comprarmi un salvatore e non mi do capire. andato, ma paura di andare a pigliare la macchina, perché sono, ce l'ho lontano, qua a posteggio non ce n'è mai, un macello. Dovrebbe andare con la macchina, con la scala di quelle tipo quelle che salgono per l'Ene, di quelle lì, che salgono. Era brigadistico di Castello, ma vi piazzata, non mi diceva se è piazzata l'antenna, no così. Cura noi che siamo nati in Bovari. Aiuto, decidiamo, organizziamo e andiamo, venga anche io a darti una mano, aiuto. Qualcuno che ascolta questa stazione, la città di Potenza, nonché la Lucania, la Basilicata che ascolta, avanti. Attenzione Basilicata, se ascolti l'isola sarda, cambio. Sì, positivo, chi è? Vieni, ho capito chi sei, buonasera, qual è Mimmo Scopra in città di Potenza. Ciao Potenza, la stazione W1 della città di Sassari in compagnia di Edgar Micacci, dai. Come mi ascolti lì a Potenza? Voglio stare una sopravvalutazione, ho sentito che sei nella città di Sassari, ok? Ma ci sono sbatteri, il tuo nome non l'ho capito. Il mio nome è Gianni, il mio nominativo doppio room. Capito, posso scrivere? Ho da Sassari, ok? Ok, vuoi sapere il rapporto qui? Fai un altro passaggio e ti faccio sapere. Cappa, dai, vediamo un pochettino come sta arrivando lì in quella zona. C'è sovrammodulazioni, comunque è un macello, dai. Ok, da parte mia, Gianni, ti copio Santiago 7, Radio 4, e quando ci sono più sovrammodulazioni, purtroppo arriva più forte di copro, comunque tutto positivo, dai. Attento, contento, stiamo copiando, Torino, Cavalcanti, Sassari. Se ne avanti, Torino. E io. E va, noi pescando. Attento, Potenza, copi Torino, Cavalcanti, da Sassari. Quindi ero io in qualcosa. I russi sono a zero, non c'è niente da mettere a posto, vediamo un po'. Attento Potenza, copi Torino Kawasaki da Sassari. Potenza, copi Torino Kawasaki da Sassari, Sardegna sempre. E anche Torino Kawasaki ti copio anche bene. Come Gianni, comunque, quando ci sono sovrammodulazioni, buonasera per la primia. K7351 anche a te, Potenza, avanti già. Sì, non abbiamo copiato il tuo QRZ, l'amico di Potenza, dai. Vieni avanti, dacci il tuo QRZ, grazie. Sicuramente c'ha sovrammodulazione, non mi ascolta più. Facciamo il prossimo locale, continuiamo, Antoine. Da me arriva praticamente come te. Non fui stato sicuro che non è lì, sono stato sicuro che è qui. E infatti la radio è strana, capito? Ma la... è tutto assalto là. Tutto segnale. Cosa? Ma non mi senti? Sassari, ci sono problemi di sovrammodulazione. Tutti adesso stiamo andando un po' la propagazione, qui piove che è una bellezza, e piove proprio fortissimo, è il momento di fare i collegamenti e la propagazione aumenta. Noi qua abbiamo il sole, siamo più fortunati. A culo nudo. E spacca il culo gli uccelli. Mi ascolti, gabbia. Abbiamo la pioggia, fa bene anche questa, qualche cosa, insomma va bene la pioggia, dai. Quanto ti arriva a Potenza al tuo? 9 più 5. Oh, a me mi arriva 9. Come te, Vian? A me 9, 18, circa. Quasi niente nel vostro passaggio, non sono in... 9, 20, ma sono potente. No, 9, 10 qua, perché questo Smitter è serra, è roba, è riminzo. Te l'ho detto già, che state facendo un questo voi, se no per me è qui, sono avuti voti. Attenzione, potenza, se ascolti doppio room. Sì, Tonino, adesso a tratti ti copio bene, momento la propagazione. Ma tu fai vita il... Questo sicuramente è qualche camper. Ha la voce citofonica per... Sì, vabbè, ha la voce, la classica voce da meridionale. No, la timbrica. Ah, la timbrica, c'è un po' di microfono. La voce, ma non so che cosa è il problema. No, è la timbrica, ho detto che non mi piace del microfono, la timbrica tua. È un po' citofonica come voce. Io sto usando il microfono statico. Ora non lo so, se ci riusciamo a capire, se no non va. Sicuramente stavo utilizzando la statica, quello con la cancellazione, con la capsula a cancellazione del rumore. Mi. Io sto cercando un turner. Il tuo com'è, nero, no? O grigio? Il mio? Io non ho turner, Atari, io ho l'MB più 5. Ce l'ho io il turner. Io ho detto Tonino, non Gianni. No, il mio è grigio, Atari. Ce l'ho io il turner. Ce l'hai? Certo che ce l'ho, adesso sono macchina normale però. A cosa sto dicendo? Ha detto ce l'ho io il turner. Antonio forse ce l'ha. Lo sentite? Sì, ti abbiamo ascoltato e ti ascoltiamo anche molto bene. Non so quanti watt stai usando, ma qua stai arrivando meravigliosamente il segnale. Oh Gianni. Ok, questo è un collegamento come funziona qua. Come funziona l'apparecchio qua, dai, posso mettere anche lei, non so se mi conviene meglio, vediamo un po', aspetta che passo un po', vedo in questa posizione, va bene? Sì, così va meglio, dai, così va meglio. Dimmi adesso quando ti sto arrivando io di segnale di radio in questa posizione, vediamo un pochettino. Anche tu sei così adesso, ti sei abbassato a 3 anche tu. Da 9-10 che arrivavi sei arrivato a 3. Come hai sentito l'eco già, ti sei tutto bagnato. Noi. Perché non te lo metti anche lì l'eco? La scheda eco colta. Perché ho finito di leccare. Aiuta, te la piazzo io, grazie. No, non lo tocco questo apparecchio tu. Ma già per te, te la piazzavo gratis. No, non lo voglio toccare, lo voglio lasciare Virginello. Bene. L'unica cosa che ho fatto è ho abbassato un po' i watt perché erano troppi. Erano 10, l'ho messo a 3 watt. Bene, bene. Ah, vabbè, tu hai il modello quello con due finali. Però per abbassare i watt mi ha detto Luca che era VR13, invece qua VR13 me ne sono usciti gli occhi, non ne ho trovato. È VR75 mi pare, una cosa del genere. L'ho capito solo perché ho guardato il service ed era a fianco al VR16. Ho detto ma deve essere questo, provato appena visto che abbassavano i watt, allora ho detto questo qua. Hanno cambiato il numero, capito? Non è più VR13. Vabbè già. Il numero già, se guardi bene è quello, magari tu c'è ampliato, tu magari hai visto R35, hai visto una resistenza, però c'è, è quello, è sempre in tutte le piastre dei PT360 e te ne è sempre siglato uguale. Boh, io non sono riuscito a trovarlo, tu. Mica ho guardato con la pila tutto quanto, non ci sono riuscito. Vabbè, comunque in ogni caso, meno male l'ho azzeccato il punto, Non è detto già che ci sia scritto VR13, magari non sono riusciti a stampigliarlo, però nello schema se la posizione è quella, è quello. Sì, ho guardato lo schema per quello, perché doveva essere VR13. Luca! Via! Dai, mi sa che stavo aperto la cassetta del gabinetto, perché per del vacuo l'ho messa nuova, ho messo quella con due tasti, una per fare la pipì e l'altra per fare la popò. Che cosa? La cassetta dell'acqua. Anche a te? Io la devo trovare quella... però non quella in plastica, devo trovare quella col water attaccato. La mia è in plastica già, capito? Ciao a tu! Ciao Lu, se vuoi già te ne svolto la mia a casa, io ce l'ho. No, non mi piace a seconda mano, ci ha cagato troppa gente. Ma io non cago nella cassetta, cago nella tazza. No, io praticamente mi si è spaccata, tanto mi è caduto il tappo, siccome non funzionava il tasto, ho aperto per smontarlo e mi è caduto il tappo dentro e ha spaccato la cassetta. Che cazzo? Vabbè, cose che possono succedere, e costa 250 euro grano. Ma che sono la cassetta? No, sono la cassetta della stessa misura, devi essere un culone per trovarla, perché c'ha dei pirni, devono andare nei buchi perfettamente, eccetera, eccetera, non si trova, non la fanno più, capito? Ma hai chiesto R? Sì, abbiamo chiesto da tante parti, bisogna comprare tutto completo, costa sulle 250. Scusa, allora metti un gabinetto normale e ti metto una cassetta a zaino. Non è possibile da me, c'è la finestra, e se no non l'avrei messo così, ma c'è la finestra, capito? Non si può mettere la cassetta in alto. No, ti ho detto a zaino, non in alto. Come sarebbe a zaino? Quella esterna, in plastica, da mettere fuori. Invece di essere attaccata al gabinetto, è attaccata al muro e poi al gruppo che la collega al posto. Quello che ti sto dicendo. Non sei uscito già. Sì, vabbè, perché non l'ho premuto bene, dai, adesso esco. Guarda, a vedere, 1, 2, 3. Allora, tutto, lo spiego io, l'ho vista io quella di Gianni. Praticamente è in ceramica anche la cassetta, quella che è attaccata al muro, che è agganciata al water. Non si può mettere quella che stai dicendo tu. Sì, vabbè, ma un water di quelli normale, lui costa 40 euro. Ah, lo so, se lo metto uno normale, certo, si può fare, è vero. Si può fare così come stai dicendo Antonio già. Alla fine vai anche a risparmiare, compri il water nuovo, ovviamente con il tappo, e la cassetta quella che ho messo io. Fai 30, 350, poi vabbè ci vuole chitarra e piazzare, fai con 100 euro fai tutto, 100, 110. Ma non c'è posto a mettere la cassetta, ancora non avete compreso, non vedo Gu, c'è la finestra dietro, capisci a mecca? Scusa, ma non avrai la finestra dietro il coperchio del cesso, già? Cazzo, aspetta che ti mando la fotografia, così almeno capisco. Sì, ti ho detto che la cassetta a zaino è attaccata al muro all'altezza del coperchio del gabinetto, già, non può salire alla finestra, non è una cassetta alta di quelle col pulsante, è una cassetta a zaino, ed è come quella che hai tu, però invece di essere direttamente attaccata al gabinetto è 10 cm sollevata però attaccata al muro. E va ragione già, è inutile, va ragione. Fatto, ma si è già fatto 20 anni di cantieri. Vabbè, diciamo che quella vecchia, dove che c'avevo prima, vecchia, però non era manco vecchia, l'ho messa 2-3 anni fa. Diciamo che solo un tassino schiacci il tasto e c'è un bel di acqua che fa la pipì o che fa la cacca. Invece ho messo quella con due tasti, una quando fa la pipì schiacci c'è poco acqua, così risparmi un bel po' di acqua, se no la gettata mi sa che 10 litri. No, di quelle cassette a zaino, se la puoi anche regolare da dentro puoi fare da 4 litri al massimo 5 litri e mezzo. Vabbè, comunque sì, l'ho messa questa qua, ci ho messo un attimo, perché i tassini che c'erano prima andavano bene a questa qua, perché sono uguali. In più hai due tastini, da quella per un poco gettito e molto gettito, va. L'unica cosa, lui, di queste cassette è che sono costruite di plastica di merda, che dopo 2-3 anni neanche si cristallizzano le plastiche, vai a premere pra e si dronca lo tasto. Lo so, vabbè, se vuoi quanto, purtroppo. Ma chi su quella giubbagata, forza chi su chi forza, allora questa qua mi sa che è la terza o la quarta che cambio. le più belle erano quelle che mettevano in alto in ceramica, cazzo non le fanno più, è inutile, le cose belle sono le prime a sparire. Maria, la mia ragazza c'ha quella lì, però lì si è rotta e il cugino gli ha messo una di quelle a zaino, cazzo 180 euro gli ha fatto pagare. Cazzo, 2 franchi. Cazzo, la qua c'era di bicarbonato, di quelle buone gli ha messo, eh. Io l'ho vista su internet, costa 160-170. Piazza da 180 ha voluto. Le migliori sono le Geberit, non c'è altro. Sì, la Geberit, così. La migliore è Geberit. Sì, sì, sì, di una marca lì. Beh, grandi cagate, bisogna spendere un bel locale. Come bischietto. A cucelli di sopra le gallerie, per carità. Non ci puoi fare già, purtroppo è guy su conto. Le cose come noi, mi, poi noi prima o poi ci rompiamo, aggiustarci è un casino, poi c'è qualche cosa che puoi sempre aggiustare, le compri nuove si aggiustano, ma noi quando arriviamo, arriviamo, eh. Ma Gianni se c'ha problemi, lo dice a quello di a fianco, se gli fa spazio nel muro, in camera da letto, non so cosa sia, capito, si può fare, un favore, cazzo, non è che sta chiedendo, infatti, dai. Lo senti Antu, no? Sì, lo sento ma poco. Lu, dimmi quanto le sta arrivando il segnale. 4, sì, Anto, segnale 4. Che schifo, anche tu sei 4, ma comunque sta lontano, ma non sta funzionando allora. No, lo smette che è a faro. Non so, ma anche il mio è a faro, stai arrivando uguale. Ti tengo un bel lavoro, ma il segnale è tutti bassi. Che te l'hai messo? Ma Manto faccio qui, sono in campagna, Lu. Ah, ecco. Vabbè, io sono lo smette, fai che sei, cosa ne so, 4, fai che sei 7, 7, 8, dai. Antonio, guarda che ti ho mandato il cash. Già, c'ho il telefono giù. Dopo lo guardo. Sì, comunque si può fare. La cassetta a zaino non arriva alla finestra, arriva all'altezza del copricchio del water, neanche. Cioè, quando tu alzi il copricchio del water, la cassetta, il copricchio del water la deve coprire la cassetta a zaino. Quindi è l'altezza. Tu immaginati quanto sarà alto il copricchio? 20 cm. La cassetta è 20 cm dal cesso. Sì, non hai capito tu. Allora, tu più sali più il muro diventa fino, capito? Non si può attaccare, non c'è il posto, se no te l'avrei detto. Insisto perché non c'è il posto, Antu. Il muro diventa più stretto dopo. Almeno che ne faceva uno lungo, cosa ti posso dire? Mandami la foto a me. Vabbè, dopo guardo la foto e ti dico qualche cosa, dai. Mandami la foto a me, già, la fai vedere a me. Non vivevo di diploma, non vivevo di diploma, papà, piazzavo un gabinetto. Io grazie a Dio già mi arrangio, piazzo la lavandini, i rubinetti. Non ci vuole il diploma. Manda a me, vediamo un po'. Ah, ma non avevo il diploma. Antu, mi puoi chiamare per cortesia? Antonio, comunque ti ho mandato la cosa, vabbè. Per quanto riguarda il messaggio, anche io stavo tagliando erba, dai. Ci occupa di vecchi a pizzi. Domani devo finire, Lu, sono qua, ohia. Non era venuto più. Adesso mi sono appena arrivato e mi sto rilassando. Bevo un tè fresco. Bia da te. Io da, vabbè, abbiamo finito a mezzogiorno, dalle 7 a mezzogiorno. E poi, vabbè, mi sono lavato perché va giù schifo, ma c'era sporco, manco uno zingaro così. Ohia. Oh, io non lo so perché la te ne sta ricevendo così male comunque. Vai un bel basso, tanto se c'è problemi tu all'antenna. Tu l'antenna è accordata, siamo in onda di stazionaria, non so cosa dici. Non lo so quanto arrivi da Gianni, tu Natali quanto lo senti ad Antonio? Natali. Boh, il tuo entra, boh, Antonio chiama, ma cosa saluta, cuo male. Vai, poco ma me sarai di siccome avevo un quinticino verticale qua, non potevo rispondere. Tu subito cuocuomane. Tu sei un cuocuomane. Comunque, come lo senti ad Antonio, Natali? Io lo sento basso. Sì, anch'io lo sento basso, ma già lo sento. Che pittina. Questo Luca. Luca sta facendo da Monello. Io adesso vado lì, lo prendo a schiaffi e la barba gliela faccio a schiaffi. No, io gliela faccio. Ah, io sono bravo, lo so Monello. Se quello entra non risponde. Mamma mia, ma però. No, ma comunque se va bene, comunque senti? Oh, poco fa lo senti, ma non lo sento più. Ah, vedi, il problema è che viene tu, tu. Noi non abbiamo noi. La terapia funziona di me, tu, Non so se era riferita a me, per la mano fa. Fatto mamma c'è un QRM. Ma rimedi tutti noi, Gianni, che vuoi? Ma che secondo me c'è il problema, Gianni? Boh, sai che la propagazione è più forte molte volte di uno che è qua a Sassari. E come facciamo a avere problemi, Lu? Se mi arrivano tutti nove, quelli di fuori, e voi mi arrivate 4, 5, 6. Era quello di infuzia. No, ma dico, se non avessi avuto ricezione, non avessi sentito nessuno. Forse a venire poi il cazzo. Cosa vuoi che ti dica tu? Boh, non ti serve di bascio. Poi se ci ricevi bassi è un problema tuo, non nostro. Oh, la mia... come si dice? È la tua? È il mio destino, arrivare basso da altre parte. Cazzo, capito, mi aiuta, magari dati per questa volta nella sua. Questa qui, vabbè, la manto va e basta però, Se la sollevo sono cazzi. Ma non la posso sollevare che c'ho i fili della corrente proprio davanti, è d'inverno qua, sbatte il vento. Se mi si corica, sui fili dell'Enel. Ah, la sarà indie. No, infatti non la docco per quello. Per muovere da lì dovrei spostare dalla parte di dietro della casa, ma devo mettere delle staffe e fare un sacco di casino. Vabbè, tanto prima di piazzare le staffe, una di... e poi una fra di ti sposti l'antenna, non è che vivo assai, Se non mi pongo l'ineare da 550 watt e non faccio bisogno di pulsarla. Anche se attacchi direttamente all'Enel e non i bagli. Attacco direttamente ai fili e non i bagli. È vero. Allora, dopo di pericolo. Tunio. E considera che sto uscendo lo 2,5 watt, col microfono originale, Via, vai a te. Tunio, ma mi senti o non mi senti? Se non ti senta a te, mi sa che senta malapena a me, vero tu? Ah, con Lucio, ciò, Guerremo, sentiamo 8. Tra l'8 e il 9. Mi sentiamo malapena, scommetto. Ti sento solo di radio. Segnale non te ne posso dare, a chi non riveggo. Ma ti sente Natalia? Digli di chiamarmi, che poco fa gli stavo dicendo così, vuol dire non mi sente, là. Io a lui lo sento bene, però lui a me non mi sente. Ehi, Gianni, ci sei? Gianni è il più forte, Gianni mi arriva 9,5. Dai, già ci sono. Ah, già ci sta, cazzo, pure ci sta. Sono fatti apposta, capito? Fai che quella ti rimane poco più alta perché c'è il tubo, ma poi non puoi anche accorciare il tubo. Il tubo dello scarico dell'acqua, lo puoi accorciare, capito? Il problema è da dove prendere l'acqua. È quello, se da dove la prende l'acqua la cassetta? Da là. Prende, Lu. Ce l'ha lo stesso come le altre, o da sotto. Te lo prolunghi, ti metti due flessibili e la carichi da su. Dall'alto la prende. Ho capito, la prende dall'alto. No, proprio da dove entra l'acqua. Da dove entra già. Dall'alto. E anche in quella zaino entra dall'alto. Allora va bene, dai, già si può mettere a voglia. Basta prendere la misura di questa, quanto è? Un metro, 80 centimetri da terra. E guarda, ti sale, cosa ne so, fai 1,10 m, 1,20 m. Dai, vengo io e Luca e te la piazziamo, contento sei? Grazie, è così difficile già. No, c'è la piazza poi è stretta, poi è che mi salzi, mi sei pure due sopra. Che... Dai, te la facciamo gratis, io e Luca. Ma bisogna sapere quale prendere, non lo so. Noi andiamo, scegliamo quella da prendere, ti mandiamo le foto, facciamo un bouquet. Va bene. E tu dopo fai la compri, oppure adesso che Luca la compra Luca. Portatevi anche la vecchia. E allora, la vecchia ce la portiamo via, ce la mangiamo. Con la ceramica della vecchia ci facciamo la dentiera nuova. Ma bisogna cambiare tutto il bagno oppure anche solo la cassetta? No, si può vedere, secondo me va a 3, si può fare una modifica, ma bisogna vederlo. Sì, dove entra il coso della cassetta è un casino, lo scarico dell'acqua ce l'ha sopra. Capito? Non è capito che è incastrato e lo scarico dell'acqua per il water c'è là sopra la vaschetta. Lo so, già, l'ho capito, ce l'ho anche io a casa mia così. Però tempo fa vendevano una guarnizione da mettere lì, no? A pressione, con un adattatore per collegargli la cassetta a zaino. Adesso bisogna vedere se la vendono ancora. Sì, va bene. Poca fretta. Sì, chi è? Chi è? Non ho capito chi sia. Pannino. adesso dai, se lo cavo di cassa, cioè, non te la mando un altro momento, dai. Non ha giocato, in realtà pigiando il telefono d'ora. Vanino sì. Ma mi stavo splatterando, ma tieni conto. Se lo c'è Falcone a sorso, sul 15. Via! Gianni, guarda la foto che ti ho mandato. Sì. Non è che vi vuole assare per trovare un coso, ma quello l'ho già smontato, tu, la cassetta, la gabinetta, tutto quanto. Gli avevo messo il silicone in terra. Ma un attimo, però non è. Da Gianni non è difficile, dai. Comunque tanto per quanto riguarda. Ci sei, sì. Sono qua. Per quanto riguarda quella domanda che mi hai fatto, l'ho acquistato, dai. Capisci a me? Ah, bene, no, perché non avevo capito. Era sì o era no. Ho visto delle foto e ho detto, boh, eppure sembra che l'ha preso, ma non capisco. Sì, sì, sì. Bene, quella è la stessa versione del mio, però il mio in più c'ha VU. Ok. Andà bene. Hai capito già com'è? Sì. Allora, prima qua, Antonio, la cassetta mia c'era il flessibile, però strozzava, allora cosa ho fatto? Era dentro la scatola c'era il rubinetto d'arresto, andava a attaccare al muro e più la cannetta, con la cannetta in rame. Solo lì puoi fare le cartelle, un pezzettino del rame e il flessibile glielo levi. E così l'ho fatto. Allora, sì, molte volte sei molto stretto, a casa era molto stretto, ho già fatto le cartelle, poi l'ho piegato piano piano il rame e gliel'ho collegato così. Ma questa cassetta c'ha lo scarico dietro, invece quella mia ce l'ha sopra il water, è capretto? Gianni, devi cambiare tutto, cassetta e water, hai capito? Tutto, e ci sta. Adesso non lo so la misura quanto è la mia, mi sa che da terra è un metro. Guarda, stende, Maccini. Ma c'era tempo fa, lui, anche una modifica da mettere per togliere la cassetta che era applicata sul water e mettergli quella zaino, voleva una modifica. Solo chiedo, Gianni, ve lo dico sento volte non ti comprende. Sì, io ho capito, dai, va bene così. Cambiamo discorso. Cazzo. Queste sono le migliori comunque già, la verità. Sono le migliori queste, le schiacci, il tastino. Però purtroppo, cioè, costano, eh. Il telefono paga, non so se si trovano ancora. E l'unica è quella 391, se no cambia anche il gabinetto, buonanotte, lo metti nuovo, così è tutto nuovo, gabinetto, cassetta, e la come quella che ho messo io, uguale. E cosa vuoi che sia? Cambiamo il gabinetto, cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi dire? Ma per la spesa dici? Vabbè, dai, già vedo io, dai, vediamo un pochettino cosa fare. Adesso questo amico mi ha detto che forse me la busca, la cassetta solo, se riesce a trovarla ha preso le misure, se riesce a trovarla ne busca solo la cassetta. E questo è un idraulico proprio di professione, capito? Ascolta a me, ma cosa c'è questa cassetta? Non tira l'acqua? Allora, il problema era questo. Tu premevi il tasto e scendeva il tasto. Le ho cambiato la guarnizione, non era quella, allora gli ho comprato tutto il tasto nuovo, e lo stavo piazzando e mi è caduto il coperchio dentro e mi si è spaccato la vaschetta, capito? Come è caduto, boom, ha spaccato la vaschetta ed è filata. Comunque esiste anche un silicone particolare per la ceramica che tu glielo metti davanti o dietro e non perdi più, così mi ha detto questa amica. Questo non te lo so dire. Gianni, ascolta Fannino che ti dice due consigli del mestiere. Ma non ne ho voglia di andare a prendere il telefono perché ce l'ho in carica dentro, capito? Sono bucato, va, non ho giocato a pigiamini. Grazie lo stesso Fanni, ma già risolvo lo stesso, non c'è problema. Modificare, c'è un monoproprio, la cassetta è già fuori a sposta, non la puoi mai modificare, la carriera. so quello che è successo, capito? Però è riparabile, ma è un malvista, si fa dare lo stucco laggiù che la rimetti a posto. E ci sono tutti stessi. No, ma non è rotta, mi capisci Vanni, è filata, è una filata, è perde dalla filatura. No, è filata, la smonti, la ricopri, la prende, la silicone, la rifai dentro con una palettina o con una, come era, una rocchia, quello che fa quello stucco, mi ero all'infita, la serpente le porte rosse. E fa che non c'è, c'è la transone, lavora la resina, liquida, chiaramente si fa da un po' di carbosina e la cucina. E tipo, perché c'è una cartella all'interno? Sono la cucina che si recupera. Ehi, c'è la da sopra l'attacco, la so, c'è i ferri che entrano dentro sopra, non sai no come sono fatti. E adesso io la so come la faccio, quindi sono quello che ti sto dicendo, adesso non voglio usare il mezzo di culo, ma è così. Io adesso non l'ho visto, non si conosco come poi arrastrare con un'altra, però bisogna anche capire se riesco, se non si riesce, allora te la scopo, te la puoi. Però ti sto dicendo, le altre sono dei muri che puoi recuperare, se sono filata la puoi recuperare. E tu hai fatto anche cose, e tu l'avrai anche visto, eccolo come è fatta la tua, questa crepa qui. La puoi dare e gli metti le rose della colla che hanno rotto, che sono male, e quella perché comunque è una buona di tipo, io ho fatto qualche cosa. Solo così. Ho capito, adesso vediamo. Un amico mio l'ha aggiustata la zia con questo, è un silicone particolare, così mi ha detto, che è un silicone particolare, l'ha comprato, mi pare da, come si chiama quello che vende il pellet, da Sidernet. Scusate, ma cosa vuol dire particolare? Particolare è un silicone, esiste, silicone a TV, particolare per vetro, silicone per muro, silicone per altre temperature, non è particolare, silicone è gommoso. Tu quando glielo metti, la cassetta all'interno è assicurata bene, capito? Se possibile di fare anche quello di accessori, non sai, per il suo livello di pulita, la cassetta di dentro. E poi gli metti il silicone, non è il silicone, è anche il silicone normale, che tu prendi da qua ci fa come particolare, non esiste, non c'è silicone cava a vento alla cerame, esiste dei siliconi che vanno tutti bene, l'importante è che tu la superficie non devi lasciare, capito? L'importante è quello, pulire bene e metti il silicone normale, silicone quelli che accedico, no, glielo metti e fa via, no? Non è particolare, non esiste, cioè, capito, non c'è da niente, quello è il primo che gliel'hanno dato, ma se metti uno di quell'altra temperatura, addirittura è uno dei migliori perché regge anche il calore, ma se non si fa più un parecchio di uno così, va bene comunque, però è più meglio. Ehi, grazie, manda bene. Ma quando perché c'avevi con la voce poco fa? Cosa c'avevi? Qualche cosa che capo fa la voce? No, 2-3 mm all'interno, tutta la cassetta, la schiacciugata, gliela rimonto e le sospette. Manda bene. Dai, tu ti invito ad andare in bagno. Avanti, avanti Kawasaki. Gianni! E lui, è Betto. Buonasera a tutti. Guarda che c'è il tubetto per la ceramica che vendo, l'ho preso io settimana scorsa per le filature, c'è un tubetto in ceramica che aggiusta la ceramica, no, gli poi metti quello non perde più, ti siete venne poco di storia, chi dato, c'è un tubetto che vendono da Bricome, l'ho comprato io per le filature della ceramica. Vai, 5 euro brutta, non lo metti la parte in dentro e non si vede più nulla, allora, ho aggiustato quello di mia figlia, ho aggiustato che era affilato, gli ho messo quello e te lo aggiusta e non si vede più nulla, non si vede e non perde. Appaga, buona sapere. Vanino. Ah, è lo stesso, se tu prendi il silicone e fare un vestimento, sai quante volte l'ho fatta con il tipo di cassetti che ci trovavo? Non mi ricordo, mi fai andare a lavorare male, non risolve il problema, capito? Non è che è particolare. la tua. Però ti sto dicendo che tu la tua la allunghi, la ricostruisci. Devi fare un sacco di silicone e hai creato una cassetta all'interno, è la migliore del periodo. Vani, la parte di sotto si è spaccata, mi è caduto il tappo dentro perché non funzionava il tasto e lo stavo aggiustando. Mi è caduto il tappo dentro e come ha sbattuto l'ha spaccato. Aspetta che ti mando una foto che ce l'ho uguale. Però già, quello lì è molto più facile perché se tu prendi con le plasmose quella lì, intanto non si vuole 10 minuti per questa armonia legittima, sei là, si scrive neanche in testa. L'ultima parte via di qui, un bordo sotto, visto che è un piano inferiore, no, dico, di qui, ti ho detto, prendo la spazio, prendo un po' di silicone, qualche altro silicone, glielo faccio di qui, tutto, è come fai, un pavimento sotto, è uguale, guarda che ci va, li arrivo tutti e non fare più. Sì, farò così, dai. Speriamo che mollino quei bulloni, cazzo, che ti sono 50 anni, sono 25 anni, i bullonati, quei bulloni che ci sono. No, devono mollare per forza, perché prima di due anche non sono quelle lì. Molla, no, che ne è problema, mollano per forza, tranquillo. Non si chiama problema, devono mollare per forza.